perché con Pippo non c'è assolutamente problema. C'è stato uno scambio di un minuto neanche di opinioni. Tutti noi vogliamo il bene del Milan, ci mancherebbe che fosse successa una cosa simile. Riusciamo a vincere un trofeo che ci mancava da tanto tempo. Secondo me la nostra società meritava un riconoscimento. Adesso è il momento anche di metterci la faccia e di rimanere uniti in quello su cui stiamo lavorando. Non dobbiamo mollare un centimetro. Tutti convocati di Carlo Genta. E io vi convoco ogni giorno all'800240024 ogni giorno dal lunedì al venerdì. Franco Piantarini in redazione, Roberto Scaltritti in regia. Siamo tutti, noi tutti quanti, ma credo anche voi, sollevati perché Ibrahimovic ha trovato casa a Parigi, sarà vicino dell'ex presidente francese Sarkozy e di sua moglie Carla Bruni, attaccante svedese, Carla Bruni naturalmente. Ha trovato casa in esclusiva Villa Montmorency, zona residenziale privata del 16° arrondissement. Fino ad ora abitava in un albergo da 3.000 euro a notte, gli chiedevano continuamente ma dove vai ad abitare e lui diceva ma la sto cercando, se non la trovo mi compro l'albergo. Siamo quindi tutti sollevati, più che per ritorno di fiamma tra Balotelli e Raffaella Fico, per Ibrahimovic che ha trovato casa in affitto nella via dei VIP a Parigi. Però la notizia del giorno, poi non dimentico il fatto che è venerdì e quindi il venerdì, ora, oggi, sempre si parlerà di basket per un campionato che sta per cominciare con Dan Peterson e Flavio Tranquillo. La notizia del giorno però arriva dal mondo dei motori, perché prima era un sussurro, un bisbiglio, un'indiscrezione, una voce, poi è diventato qualcosa di più e alla fine bam, la firma su un contratto. Lewis, I understand you play the guitar. I've got a tune for you. Yeah, play this. Jensen has to guess it. There we go. You reckon you can handle that? Oh, yeah. Fantastic. Okay, here we go. Right, take it away. Is it any cold, though? Push your cat nose. Well, I think we know what this is going, yeah? Wonderwall. Let's see it, come on. Today is going to be the day that we're going to really back to you. Wow. Right now, it's really tough. Quello che canta Lewis Hamilton, l'anno prossimo queste feste si faranno alla Mercedes perché ha firmato per 3 anni, mentre Michael Schumacher andrà a ballare liscio da qualche parte visto che è stato pensionato e ha rilasciato dichiarazioni di programmatica. Migliori auspici, miglior fortuna possibile a Hamilton. Le cose non sono andate evidentemente bene dal punto di vista sportivo. Sono stati 3 anni meravigliosi, ha detto addirittura Schumi. Carlo Vanzini, chi ci crede? Ciao Carlo. Ciao, ciao, buon pomeriggio. Ma credo che siano ovviamente delle dichiarazioni di prassi queste di Schumacher. Qualcuno sogna ancora, visto che si è liberato il posto in Sauber, che possa andare in Sauber, però non dimentichiamo, o anche qualcun altro dice in Force India, non dimentichiamo che Schumacher è arrivato in Mercedes stipendiato, ha sempre corso da stipendiato. Per passare a un'altra scuderia dovrebbe trovarsi una sponsorizzazione diciamo intorno ai 20 milioni e credo che in questo momento sia abbastanza difficile anche per uno che si porta dietro 7 titoli mondiali e il suo nome, quello di Schumacher. Senti Carlo, questo arrivo di Hamilton in McLaren che cosa rappresenta? Hamilton che passa in McLaren in Mercedes naturalmente, McLaren che ingaggia Perez che farà la seconda guida a Jenson Button, è la prima mossa di un mercato piloti che cambierà la faccia alla Formula 1 o semplicemente il fatto che la Mercedes con tutti i soldi che butta nella Formula 1 non poteva più permettersi di giocare un ruolo di secondo piano? Ma sicuramente la Mercedes aveva bisogno di cambiare marcia perché ha preso Schumacher, ha sicuramente preso Maradona della Formula 1, però sul mercato adesso c'era Messi, quindi la Mercedes ha fatto bene a prendersi quello che è insieme ad Alonso secondo me il miglior pilota della Formula 1, insieme forse anche a Raikkonen, quindi ha deciso di dire ok, o la va o la spacca. Credo che ci sia molta politica anche alle spalle di questo passaggio di McLaren, dalla McLaren alla Mercedes di Lewis Hamilton. Hamilton, da una parte una McLaren che probabilmente perderà quello che è lo sponsor principale, quindi non aveva possibilità di pagare ancora Lewis Hamilton, e con l'arrivo di Perez si porta dentro i soldi delle telecomunicazioni messicane, con alle spalle il magnate, l'uomo più ricco del pianeta, Slim. Quindi insomma c'è molta politica ed economia alle spalle anche di queste situazioni. Non solo, la Mercedes ha da poco rinnovato il patto della Concordia, quello che lega i team alla Formula 1, quindi vuol dire che Mercedes resterà a lungo in Formula 1, e per arrivare a convincere gli azionisti a restare in Formula 1 c'è stata questa mossa orchestrata alla perfezione da Lauda, Niki Lauda, che entra nel consiglio di amministrazione della Mercedes insieme a Bernie Ecclestone, per far sì che Hamilton scegliesse appunto la Mercedes. L'ultima cosa, Carlo, ho sentito, avete passato a Sky dichiarazioni di Massa che rimane molto fiducioso una possibilità di rimanere in Ferrari. Tu ci credi? Ma io credo che la Ferrari, innanzitutto per quello che so io, la Ferrari ha scelto di non scegliere Perez, nel senso che molti dicono: ma come, la Ferrari si è fatta soffiare Perez, pilota in orbita Ferrari? Allora, Perez fa parte della Ferrari Driver Academy, quindi la formazione dei piloti che possono in qualche modo poi ambire a un sedile della rossa. La Ferrari ha deciso che Perez non è un pilota da Ferrari, almeno in questo momento. La decisione ci sta anche nel fatto che se è vero che nel 2014 ci sarà la coppia dei sogni Alonso Vettel in Ferrari, allora va bene un altro anno di transizione, e allora va bene la presenza di Felipe Massa, di questo Massa. Non va bene nel momento in cui pensi al titolo costruttori, alla possibilità di lottare per il titolo costruttori, se Massa non torna a dare continuità di prestazione, perché le prestazioni non sono mancate nei momenti migliori nel corso della stagione, è mancata sicuramente la continuità. Quindi la decisione è questa. Le alternative possono essere Hülkenberg o Paul di Resta, che ha fatto una stagione straordinaria, e è l'uomo tradito da Mercedes e da McLaren, perché lui è un uomo in orbita Mercedes, interessava la McLaren, entrambe hanno deciso di prendere strade diverse. Quindi di Resta potrebbe essere un pilota interessante in questo momento per la Ferrari, però già Alonso anche si è espresso a favore di Massa, d'altronde a lui va bene così lui è gran leader del team. Ma come è giusto che sia? Ma come è giusto che sia? Ma Schumacher ha sempre voluto uno zerbino, giusto che lo voglia anche Alonso, per Schumi era Barrichello, per Alonso può essere un Felipe Massa demotivato, Carlo, quindi lo trovo abbastanza corretto. Sì, io credo che Alonso abbia già pagato lo scotto della presenza di un giovane rampante come Hamilton in McLaren. Il problema di prendere Perez adesso era anche prendere un Perez che va forte, come gare da partire. Comunque è tutto ancora da dimostrare, perché è andato forte, è vero, ma quest'anno con le macchine così non sai mai bene quanto sia merito della macchina. Anche Maldonado ha vinto, ha fatto pole, quindi non sai mai bene dov'è il limite della macchina, il limite del pilota, anche con la gestione delle gomme. Io credo che tutto sommato la Ferrari faccia bene in qualche modo a valutare la permanenza di Felipe Massa. Felipe Massa però deve garantire più punti, certo, con una stagione normale oppure più continua la Ferrari adesso sarebbe, se non in testa, comunque lì a giocarsi il sicuro. Non è lontana, è sempre in lotta, però è più distante. Certo. Un po' il di Resta sarebbe affascinante per me come opzione. Come opzione. Grazie Carlo. Grazie Carlo Vanzini da Sky. Ci fermiamo subito per il traffico. 800 24 00 24. Ma che domande mi fate? Certo che siete convocati tutti quanti a questo numero verde. Per la cronaca, la mancia di Lewis Hamilton alla McLaren sarà di 25 milioni di dollari all'anno, giusto una mancia. C'è chi si fa una grassa risata, Massi da Lecco, alle affermazioni secondo cui Hamilton è uno dei piloti migliori della Formula 1, e scrive che barzelletta. Non mi sembra tanto una barzelletta, perché Hamilton è uno con il piede pesante, è uno molto veloce, certamente il migliore è... quello che guida la Ferrari è Fernando Alonso, che ha più continuità, che ha più intelligenza di guida, però Lewis Hamilton è molto giovane, molto veloce, può crescere ancora molto, può diventare il numero uno. e non mi sembra che ci sia da ridere su questo. Roberto Pordenone, buongiorno. Sì, buongiorno. Difatti io mi ricollego. Allora, a parte che avete definire Alonso Messi vuol dire chiamare Hamilton Messi vuol dire definire Alonso Pelé. Allora Alonso Pelé, dunque Carlo Manzini ha detto che era Schumacher era Maradona, quindi un ex, un grandissimo ex. Hamilton e Messi, paragone calcistico con facciamo Cristiano Ronaldo, no non lo so, secondo ecco, me Messi Ronaldo, allora Cristiano secondo me Ronaldo, Messi è Alonso, quest'altro è Cristiano Ronaldo, vabbè siamo d'accordo? Sì, più o meno sì. Dai, diciamo via. Questo, che secondo me la notizia in effetti non è tanto il passaggio di Hamilton in Mercedes, che era di fatto nell'aria ormai da più di qualche settimana. La notizia, per quello che ne consegue, è che la Ferrari abbia mollato di fatto Perez, perché questo vuol dire che ritiene di poter avere in qualsiasi momento nei prossimi anni la disponibilità di Vettel. Allora, il sogno della, si dice che il sogno della Ferrari sia quello di avere la coppia Alonso-Vettel per non la stagione prossima ma quella successiva. Secondo me sarebbe un errore, perché io continuo a pensare che la Formula 1 sia non debba essere un gioco di squadra. La Formula 1 è un campionato individuale, e quindi avere due piloti che si rubano la scena, che si fanno ombra, che si rubano i punti, che magari creano dei problemi all'interno del team, non sia strategicamente una grande soluzione. Certo, la soluzione migliore è quella di una seconda guida che faccia la seconda guida, che sia competitiva a sufficienza per prendere i punti che servono per il mondiale costruttori, e questa deve essere la funzione della seconda guida. Massa non è in grado in questa stagione di farlo, dopo tante dichiarazioni, dopo un po' di presunzione, dopo partiamo alla pari e poi vediamo. Non è così, perché Fernando Alonso è la prima guida della Ferrari, quindi Massa deve dimostrare di essere una seconda guida affidabile, altrimenti vale la pena rivolgersi altrove. Arturo Firenze, salve. Dica. Come dicevo io, a mio modesto parere, sicuramente Perez è un pilota di quelli tosti, mi può star bene anche di resta, non è niente male. Il binomio Alonso Vettel nel 2014 è assurdo, perché due galli nel pollaio non vanno proprio bene. Sono d'accordo. Quello che volevo, se posso aggiungere, l'ho detto adesso, dica, aggiunga quello che vuole. Io seguo moltissimo ovviamente la Formula 1 in televisione. Regolarmente mi arrabbio perché questi signori commentatori non impareranno mai a pronunciare Raikkonen, diventa Raikkonen, Hamilton. È possibile una cosa del genere? È un purista della lingua. Chissà come la pensa il nostro grande amico ritrovato, ovviamente, Dan Peterson. Ciao coach. Ciao ragazzi, amici sportivi, buon pomeriggio a tutti. Tu dal punto di vista linguistico hai fatto la storia, no? Questa è un'esagerazione, ok? Quindi, non so se Raikkonen sia Raikkonen o come sia, però le tue telecronache hanno fatto diventare insomma giocatori dei miti, anche solo per come li pronunciavi. Speriamo di sì, è la mia punta di forza. È il tuo punto di forza. Coach, cosa mi dici di questa stagione che va a partire? Perché non ho studiato abbastanza, te lo confesso. Mi sembra tutto molto nuovo. Cantù sta provando, e stasera proverà schermi di Sport Italia 2. La commenti tu? Sì, io e Niccolò Trigri, ore 20:30, Sport Cantù Italia Leman. 2. Grande partita, e tutti dicono che Cantù è stato fortunato che è stato eliminato a Kazan, ma io non ci credo. Se Dumont ha eliminato a Kazan vuol dire che loro sono forti, però Cantù è una squadra seria che gioca 40 minuti su 40 con grande concentrazione, con grande impegno, quindi, però come hanno dovuto giocare 40 minuti contro Lukoil Sofia e contro Nymburk proprio della Repubblica Ceca, cioè dovranno fare altrettanto questa sera contro Dumont, però speriamo che ci sia la terza squadra italiana in Eurolega, perché ci vogliono tre, e sono un po' amareggiato per il fatto che non ci siano anche altre squadre italiane nelle coppe, uno almeno in più nella Eurolega, e vorrei vedere sempre ogni anno quattro nella Eurocup. Beh, certo. Senti coach, Cantù, Milano pronte a rubare la scena a Siena. C'è qualcuno che dice, se Milano non lo vince quest'anno non lo vince mai più. Ma ovviamente tutti vogliono gettare addosso a Milano il peso del pronostico, eccetera. Io dico questo qui, che Milano ha una grande società, grande squadra e grande coach in Sergio Scariolo. Ma a Siena è sempre Siena. Io l'ho visto giocare, ovviamente contro Fenerbahce in fase di rodare, ok? Però loro sono una validissima squadra che vedremo probabilmente il vero Siena a dicembre, gennaio, febbraio, quando tutti questi nuovi elementi, come hai citato tu, sono amalgamati, ok? Ci vorrà un attimo di tempo, però ottimo staff tecnico con Luca Banchi, Marco Crespi e compagnia. Quindi loro, è una squadra molto ben attrezzata, cioè con Sanchez giunto, Kangur e compagnia, è una bella squadra. E questo Brown mi ha fatto una grande impressione. Non dico che è bravo come Bo McCallum, però bravissimo, è un po' diverso, grande penetrare, scaricare, altre cose. Cantù è sempre Cantù, e dico che le punte di forza, altri quarto, quinto punto di forza che possono anche sorprendere sono Sassari e Varese, che sono squadre che sono ben attrezzate e con grande umiltà affrontano tutto, non fanno proclami, grandi pubblicità, loro sanno i loro limiti di bacino, diciamo, del pubblico, in provincia, eccetera, e dicono, noi possiamo fare questo, come fa Cantù, ok? E questa è la forza di questa società, di capire i loro limiti, stare dentro e dare il massimo da questo qui. Quindi, secondo me, per un momento queste sono le cinque squadre. Le cinque squadre del campionato, da tenere d'occhio. E non si sa mai una sorpresa. Non dico Roma, ma dovrebbe essere Roma. Dovrebbe essere Roma. Così mi hai bruciato la domanda successiva, te ne faccio un'altra, caro coach. Tu hai detto che... No, ma per chiudere il discorso, tu hai detto che la vera Siena si vedrà verso dicembre. Quindi questo vuol dire che non è competitivo in Eurolega nella prima fase? Ovviamente loro dovranno puntare molto sull'Eurolega nella prima fase, però se loro riescono a passare il top 16 e andare solamente alla fase della regular season, andare al top 16, secondo me hanno fatto benissimo, però guai sottovalutare loro. Forse ho detto dicembre per mettere le mani avanti, perché loro miglioreranno sistematicamente, più che la gente si abitui a giocare insieme meglio sarà. Ieri sera, per esempio, c'è stato il malinteso, la partita Cantù che è giocata ieri sera, per motivo, perché c'era Smith che non era abituato a giocare con Aradore, malinteso passaggio uscita da capo. Tu vedrai che Aradore e Smith fra un mese questo non succederà mai, capiranno occhio a occhio, hai capito? Sì, certo. È la partita mentale, e Siena farà la stessa cosa. Ho detto dicembre, può essere subito, può essere novembre, però verranno insieme e saranno sempre più forti. Grazie coach. Ok, amici, un abbraccione. Ciao a tutti, ciao. A venerdì. Ovviamente tutti convocati, 800 24 0024 ogni giorno dal lunedì al venerdì per parlare di sport, non solo di calcio. Grazie Nunzio dalla provincia di Venezia per l'attesa. Pronto? Pronto? Dica. Sì, buongiorno. Buongiorno. Complimenti per la nuova trasmissione che a me piace molto. Grazie. E adesso comincerà il campionato di basket, quindi venerdì saranno dedicati al basket, visto che sono un grande appassionato. Sì, ma non solo il venerdì, crossover totale, quando ci saranno notizie le daremo, cioè non fossilizziamoci. Venerdì appuntamento fisso, ma poi siamo aperti a qualunque discorso, anche dal lunedì al martedì, al mercoledì, al giovedì, non ci sono limiti. Niente, volevo sapere un suo giudizio, visto che telefonando da Venezia sono tifoso naturalmente la Reyer, e quindi volevo sapere un suo giudizio sulla Reyer, e se con l'acquisto di Denis Marconato, che anche se ha 37 anni secondo me può dare molta esperienza alla squadra, se può puntare ai playoff. Sì, può puntare ai playoff, altro che Nunzio. Già l'anno scorso ha fatto una stagione straordinaria, la Reyer a sorpresa, quest'anno sarà un po' meno sorpresa del campionato, perché naturalmente tutti l'aspettano al varco. Credo che Marconato possa essere un backup da 10 minuti per i lunghi, che insomma possa essere molto utile, però la Reyer mi sembra una squadra comunque completa, compatta, e io la aggiungerei all'elenco del coach delle possibili outsider, no? Peterson dice Varese, dice Sassari, forse Roma, io aggiungo anche Venezia, se me lo permettete. 800 24 00 24. Mentre divagando vi dico che c'è un'agenzia secondo cui Miroslav Klose dice la cosa più normale del mondo, almeno secondo me e almeno in un mondo come dovrebbe essere. La palla mi è finita sulla mano e per me è stata la cosa più normale del mondo dirlo all'arbitro, ha detto l'attaccante della Lazio. Io continuo a sostenere questa idea. Poi c'è invece chi vuole l'oro, l'incenso, la mirra, la beatificazione, la santificazione, e allora fate voi. Per me invece ha compiuto l'attaccante della Lazio un gesto che è normale compiere ed è normale fare. Ed ecco l'altra nostra voce del basket che torna. Flavio Tranquillo, buongiorno, bentornato, buon pomeriggio. Ciao Flavio. Ciao a te e a tutti. Come stai? Ovviamente. Come stai? Bene, bene, grazie. Passata tutto, bene l'estate? Tutto veramente a posto. Tutto veramente a posto. E anche a te chiedo una lettura di questo campionato. Lettura estremamente difficile, visto che le squadre sono in gran parte nuove. C'è chi dice Milano se non lo vince adesso non lo vince più, c'è chi dice, come ad esempio coach Peterson, aspettiamo Siena a gennaio, capiremo quanto valgono, c'è chi dice Cantù comunque competitiva, c'è chi dice Varese, Sassari, Venezia outsider. Tu che dici? Ma io dico che tutte queste cose sono sicuramente sostenibili e logiche, però più che mai in un campionato con queste caratteristiche davvero fino a gennaio non possiamo avere un'idea, perché la differenza di livello, diciamo, teorico tra i giocatori è così poco marcata, tranne che nel caso del roster di Milano, che è messo su un foglio di carta effettivamente ha una caratura diversa rispetto a tutti gli altri roster. Però abbiamo già visto roster simili nello stesso posto in questi ultimi anni non trasformarsi dal foglio di carta al parquet nella stessa maniera. Quindi per Milano aspettiamo per questo motivo e per gli altri aspettiamo per il motivo opposto. Ci sono almeno 10 squadre che possono arrivare dal secondo al 12° posto e probabilmente la differenza è minima e la farà la famosa chimica che non possiamo giudicare finché non la vediamo in campo. La famosa amalgama che non si sa mai bene quanto costa. Al mercato è già data via l'amalgama. C'è chi mi scrive, è un mese che non ti ascolto, pensavo ti avessero licenziato. Ringrazio, sono ancora qui. Purtroppo ogni tanto prendono anche decisioni sbagliate le aziende e non mi hanno ancora licenziato. No, ma a me, Micate. Micate. A me, stai scherzando, figurati. No. Senti, torna Ettore Messina per un Eurolega che non avrà quest'anno stelle a scadenza, quindi sarà più facile da leggere da subito. Però anche a te voglio fare una domanda che ho fatto prima con Peterson. Che mi dice? Siena la capiremo a gennaio. Questo cosa vuol dire? Che Siena in Eurolega quest'anno non conta nulla? No, non vuol dire che non conta nulla, ma certo mi stupirei se riuscisse ad arrivare nelle prime 8 e mi stupirei moltissimo se riuscisse ad arrivare nelle prime 4. Non conta nulla, mi sembra esagerato. È una squadra che di sicuro per adesso, per quello che l'ho vista in 2 o 3 occasioni, come posso dire, ha più quantità che qualità, sempre che questa espressione che è molto sintetica, orribilmente sintetica, abbia sufficiente senso. Però la quantità è notevole, sia nel numero di giocatori che nella fisicità di tanti giocatori. Credo che quello che andrà verificato a gennaio è se la qualità è surrogabile dal sistema, quindi dalle ripetizioni, quindi dalla familiarità dei giocatori, o se invece c'è un deficit proprio a livello tattico, chiamiamolo così, e in quel caso non è così facile trovare il singolo giocatore eventualmente da inserire che ti fa colmare questa lacuna. Sì, Flavio, i ragazzi muoiono dalla voglia di sentirti parlare di Lakers, accontentiamoli, anche qui ovviamente, qui ancora di più il roster sul foglio di carta vince tutti i tornei di fantasy NBA possiate immaginare, però lì davvero non si gioca sul foglio di carta, e in più io faccio fatica a immaginare la somma di un giocatore di pick and roll dal palleggio puro come Steve Nash, un giocatore che secondo me sarebbe nato per il pick and roll ma non vuole giocarlo come Howard, un giocatore di post basso come Bryant che sta assieme a un altro giocatore che vuole il post basso come Gasol, ma tutti e due dovranno concedere a Howard anche più spazio lì rispetto a quello che concedevano a Bynum, il tutto mischiato col Princeton offense che mi sembra almeno teoricamente il contrario di quello che vorrebbe ognuno di questi quattro, sicuramente a parte Gasol gli altri tre. Non è così automatico che poi si vinca passeggiando, cioè serve la famosa amalgama che è finita al mercato, insomma. Anche lì l'hanno finita, incredibile. Anche lì l'hanno finita, anche negli Stati Uniti, quindi non è così scontato come pensiamo da tutta l'estate. C'è una stagione da giocare, c'è una stagione da giocare. Oh, assolutamente, e soprattutto Oklahoma City per un verso e Miami per l'altro, e non perché hanno fatto la finale, ma in generale hanno un vissuto cestistico superiore. Boston ha un vissuto cestistico enormemente superiore. Queste cose contano, eh? Certo. Flavio, grazie. A te. Bentornato. Ben non licenziato. No, ciao. Licenziano me, mica te, licenziano me. No, beh, sì, stavo dicendoti, infatti. Se non mi licenziano, Flavio, Carlo. Se non mi licenziano, se non ci risentiamo, altrimenti toccherà qualcun altro, che te devo dire? Grazie Flavio. Grazie. Abbraccio, Flavio, tranquillo. Ciao. Allora, domenica si comincia con questo programma di basket. Beh, si comincia domani 16:10, diretta sulla 7D, Vanoli Cremona, Bologna, Virtus Bologna, poi domenica 18:15 Avellino Montegranaro, Pesaro Virtus, Roma, Sassari, Biella, Brindisi, Varese, Armani, Milano, Caserta, alle 20:30 di domenica, Reggio Emilia, Montepaschi, Siena, il 2 di ottobre, ovviamente per storie di qualificazione di Eurolega si gioca in posticipo Cantù, Venezia, Oreste, Piacenza. Sì, salve, ho acceso la radio prima, parlavate di Formula 1, sì. Io sono un appassionato, sono stato anche a volte nelle corse di moto, eccetera. Volevo dire, parlando di Formula 1, per me è un controsenso parlare della seconda guida. In Formula 1 tutti quelli che partono per vincere. La seconda guida c'era nel campionato prototipi degli anni 70, c'era Jack Hicks con la Ford GT40. Sì, Oreste, però ci sono piloti più bravi di altri. No. Sono più bravi, ma il pilota di Formula 1 è come un pugile. Quando fa lo sparring partner, fa lo sparring partner. Quando sale sul ring, sale per vincere, non sale per fare il secondo, cioè per far vincere l'avversario. Cioè, nel campionato prototipi c'erano Derek Bell con la seconda guida della Ford GT40, c'era Hans Herrmann, seconda guida della Porsche. Quelli facevano le 20 di Le Mans, le 23 di Daytona, erano le seconde guide che servivano a portare avanti la macchina. No, ma certo, ma la seconda guida non è necessariamente un portaborraccia, però io sono dell'idea che la strategia corretta è quella di avere comunque, se vuoi vincere un mondiale, un grande pilota, che sia Alonso, che sia Hamilton, che sia Raikkonen, e un altro pilota che ovviamente non corre per perdere, però corre con precisi ordini di scuderia, che sono quelli ad esempio di dare una mano al caposquadra e di cercare di rubare punti agli avversari. Questa secondo me è la strategia corretta. Non so se mi spiego. 800240024, numero verde, tutti convocati dopo il traffico. Legalmail.it, la tua posta elettronica certificata, vi presenta Strade in diretta. Sull'Autosole si formano code per un incidente tra Orvieto e Fabro verso Firenze, mentre la circolazione è rallentata tra Barberino e Roncobilaccio in direzione di Bologna per un veicolo in avaria. E ci sono code per un incidente anche sul raccordo Salerno-Avellino tra gli svincoli per la A3 e Baronissi in direzione Avellino, circolazione rallentata nella direzione opposta. Infine continuano le proteste dei lavoratori dell'Ilva a Taranto, bloccati anche oggi gli accessi in città sulle statali 106 Ionica e 7 Appia. È tutto, a più tardi. Tutti convocati. Ho paura, no? certamente l'accoglienza l'ultima volta non era molto carina, l'ho segnalato anche al delegato della federazione che sta su bordo, che risultava strano che 90 minuti di offese non succede niente, però se uno fa bu prende squalifica o multa per razzismo. A prescindere dal discorso generale, io penso che anche in questo siete voi che aiutate molto a capire la gente. Io penso che i danni alla Juventus non li ho fatti io, quindi se la dovrebbero prendere con gli altri. Avete capito? Così Zeman questa mattina in conferenza stampa. Non credo sarà carina l'accoglienza per il tecnico boemo, nemmeno domani sera 20:45 per questo Juventus-Roma. Me lo auguro, ma credo di no, perché nessuno di noi è Alice nel paese delle meraviglie. Oggi non parlerà Carrera, ovviamente non parla Conte. Mandano in conferenza stampa il preparatore atletico di cui mi sfugge il nome. Filippi, ecco, oggi per la Juventus, la voce della prepartita della Juventus sarà di tale Filippi, preparatore atletico. Bah! Roberto, Trento. Pronto? Pronto? Dica. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Volevo soltanto riferirmi a quanto aveva riferito lei sul close. Sul fatto che sì, c'è chi scrive, guardi, le dico subito, c'è chi scrive alcune cose, come ad esempio questa: Klose sa perfettamente che nel calcio attuale in campo esistono 100-200 telecamere, sarebbe stato squalificato sicuramente, e comunque se non ci fossero state proteste dei giocatori del Napoli probabilmente avrebbe continuato ad esultare. Buongiorno Danilo da Carpi. Klose, se non ci fosse la prova televisiva, avrebbe agito ugualmente. Ricordiamo Girardino. Questa è una domanda che rimane lì nell'aria, perché non ci fidiamo mai, naturalmente, nemmeno di un gesto che è sembrato spontaneo e a mio parere normale. Ecco, appunto, volevo dire proprio questo, che come mentalità Klose ha affermato una cosa naturale. A me sarebbe piaciuto, indipendentemente dal colore cui appartengo, che lo stesso nostro portiere della nazionale Gigi Buffon avesse fermato anche questo. A che colore appartiene? Già lo immagino. No, questo non c'entra assolutamente nulla. Parlo di un simbolo anche della nazionale che dovrebbe dare il buon esempio. Sì. No, non sono di quest'idea, non sono mai stato di quest'idea, Roberto, perché in quel caso non esiste al mondo che un portiere, al mondo, non in Italia, non esiste al mondo che il portiere fermi la partita, vada dall'arbitro e dica la palla è entrata. Lì è stato un errore colossale di tutti quanti, di cui continueremo ovviamente a parlare per anni. Però Buffon poteva risparmiarsi le esternazioni successive. Non vorrei tornare su questi discorsi, se no facciamo notte, mentre abbiamo ancora esattamente 6 minuti di tempo. Però non esiste al mondo un portiere che si comporti in quella maniera. Allora, visto che parla tale Filippi per la Juventus, noi vi facciamo sentire invece cosa ha detto, e stemperando le tensioni possibili, Mirko Vucinic. Ma sicuramente, perché comunque con lui ho fatto 19 gol in campionato e posso essere solo grato per quello. Mi ha insegnato parecchio, però poi ho avuto la crescita costantanea e poi ogni allenatore quale incontravo mi insegnava qualcosa. Questo era Mirko Vucinic, quello che parlerà ora invece Ivano da Monza, convocato. Buongiorno. Buongiorno. No, abbassi la radio, se no non sento niente. Ah no, è perché ho il Bluetooth, un attimo solo allora. Bluetooth, allora, mentre lei sistema il Bluetooth, io faccio sentire cosa hanno detto ai nostri microfoni due grandi ex di questa partita, parole ben note, Vialli di Biagio. Zeman, secondo me, è una persona molto molto intelligente, è anche un grandissimo paraculo. Sì. E quindi insomma combatte le battaglie che gli convengono e quelle altre se le dimentica. Comunque questo è un giudizio personale, io tra l'altro non l'ho mai perdonato quando ha gettato un'ombra sulla carriera mia di Del Piero, ancora non mi ha chiesto scusa, ma va bene così. Sento parlare di Zemanide, ma secondo me nella fattispecie della partita di ieri non c'entra assolutamente niente, sono due cose ben diverse e l'avete spiegato anche voi, no? Nel senso che ci sono stati degli errori individuali che hanno lasciato insomma un po' a desiderare, discorso non era il momento in cui la Roma stava spingendo, anzi, era una Roma che era molto attenta a non andare oltre, a non andare a cercare il terzo gol, appunto è quello che dico, che magari il mister è arrabbiato per questo. Il mister porta avanti le battaglie, non le sue, ma le domande che gli vengono fatte. Se in queste domande c'è sempre la Juve di mezzo, la colpa non è che è del mister, quindi non la vedo in questa maniera. Non solo, anche per quello. Sicuramente hanno contribuito molto sul fatto di scelte importanti da parte dei presidenti o dei dirigenti, però non solo quello, bisogna essere anche realisti. Vialli di Biagio, Ivano da Monza, il Bluetooth. Sì, dica. Volevo parlare di Formula 1, volevo sapere se secondo lei in Ferrari qualcuno avrà fatto il mea culpa per aver prepensionato Raikkonen in favore di Massa, visto l'impatto che ha avuto al rientro dopo due anni o tre di Raikkonen è un gran pilota, però Ivano, io tornerei al discorso di prima: se prendi Fernando Alonso, cerchi di vincere il mondiale con Fernando Alonso, come quest'anno sta provando a fare in maniera meravigliosa, perché sta compiendo lo dico tutte le volte, un capolavoro autentico. Io non credo che in una scuderia che vuole, che punta al titolo piloti, possano coesistere due galli che si beccano i piedi e la faccia nel pollaio. Allora, Champions League. I numeri della Champions. E allora vi racconto, io e Franco Piantanida vi raccontiamo che solo 6 squadre hanno centrato il treble, vincendo il proprio campionato, la propria Coppa Nazionale e la Coppa dei Campioni oppure la Champions League. Sono il Celtic nel 66-67, l'Ajax, la grande Ajax del 72-73, il PSV Eindhoven dell'87-88, il Manchester United nel 98-99, il Barcellona nel 2008-2009 e ovviamente l'Inter 2009-2010. I numeri della Champions in collaborazione con Unicredit. Ragazzi, non me ne lasciano scappare una, ho detto Ajax 72-73, ovviamente era 71-72, ce l'avevo sotto il naso, ho sbagliato io. Chiudiamo questa puntata e questa settimana di tutti convocati in attesa di riaprire i giochi lunedì alle 2 con una voce di Felice Gimondi, che domani compie 70 anni, che ha rilasciato una lunga e bella intervista a Dario Ceccarelli e che ha parlato anche in termini non banali di Lance Armstrong. Grazie Franco Piantanida, grazie Roberto Scaltritti, a lunedì. Ma per me è sbagliatissimo, siete tutti e Frank, sono già stati omologati, per me sono acquisiti. Poi tra l'altro è un provvedimento che non è ancora confermato, cioè non è Lucci che ha deciso di togliere i tour. E sembra una battaglia intestina in America, forse perché lui ha partito qualche politico. Per me rimane comunque il vincitore di 7 tour, punto e basta, perché sono stati omologati e quindi sono stati chiusi.